perdi come vuoi tu, metà di darti ragione, perché l'età che ti fa sentire più forte, più bella, selvaggia e ribelle. Ma sei tu con quel tuo maglione blu, ma sei tu per quel tuo sorriso in più, sali su. E quando ti spoglio, ti guardo e mi imbroglio, così mi va. Voglio l'anima, l'anima. Io non posso più lasciarti libera, libera. Voglio l'anima, l'anima. Voglio un casino della città e prenderti il disco che più ti va, e con la mia moto di corsa in soffitta, e poi che si fa? Ma sei tu con quelle calzette giù, ma sei tu che giochi coi sensi, tu non hai più quel modo di fare e ti lasci andare sempre di più. Voglio la